voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Dodicesima puntata. Malinconia. Ogni giorno di quella lontana e fresca estate, i bambini della colonia Bedin Alighieri, una colonia per poveri mandata avanti da suore altrettanto povere, le Dorotee, venivano fatti alzare di buon'ora per poi uscire subito nei prati o nel boschetto di pini alla sommità della collina. Li sorvegliavano due suore giovani, vestite tutte di bianco, per l'occasione estiva, anziché del saio nero e la cuffia nera, infantili anche loro e piccole, quasi quanto i ragazzi. C'erano maschi e femmine, e tra le femmine un ospite, di nome Silvia, chiamata ospite perché nipote di uno dei fondatori, socialista, che povero non era. Ecco perché Silvia, a differenza di tutti gli altri, anziché indossare il grembiule d'obbligo della colonia di colore grigio senza colletto e di tela molto povera, poteva scegliere ogni giorno nel suo piccolo guardaroba i suoi soliti abiti, le sue scarpe di sempre e non sandali di gomma rossa che facevano parte dell'uniforme e perfino bambole o giocattoli di sua proprietà che si era portati da casa. Dormiva però in camerone con tutte le bambine e per il resto la giornata di Silvia era uguale a quella degli altri. Stessa piccola colazione, stesso pranzo, stessa merenda al pomeriggio e stessa cena. Anche il lettino smaltato di bianco e le lenzuola ruvide con una grossa cucitura nel mezzo erano uguali a quelli delle altre. Era la prima volta che Silvia stava in compagnia di bambini in una colonia e non come al solito sola col nonno e con la cameriera insieme ai quali viveva tutto l'anno. L'aveva accompagnata il nonno sulla canna della bicicletta che aveva un sellino apposta per lei. Lui vestito come al solito di nero, alpagas nera, la cravatta a farfallone svolazzante, il grande cappello nero e gli stivaletti, anche quelli neri di capretto, alti con l'abbottonatura di lato. L'aveva raccomandata alle suore che del resto si erano mostrate felicissime di riceverla, trattandosi di un ospite di particolare riguardo. La grande novità di quel soggiorno in colonia furono per Silvia gli odori. Nei prati distingueva nettamente i diversi odori delle erbe e delle piante, senza conoscere il nome né delle une né delle altre, ma erano mentuccia, salvia, rosmarino, oppure semplici piante d'erba o di radicchio, o felci, o erba gramigna, o altre erbe che invece puzzavano e che i maschi le mettevano apposta sotto il naso. Altri odori completamente diversi erano quelli nel boschetto di abeti e larici alla sommità della collina dove andavano al pomeriggio. Pigne, pinoli, aghi di pino e certe bacche a forma di campanello che Silvia definiva i morti con gran successo tra i bambini. Anche gli insetti avevano un odore particolare. Le cavallette che Silvia era abilissima a catturare sapevano di verbena. E così certi coleotteri o cervi volanti sapevano odore di celluloide o lo emanavano una volta rinchiusi in certe gabbiette di fili d'erba che una delle suore le aveva insegnato a costruire. Uno degli odori preferiti di Silvia era quello del letto e delle lenzuola che impregnava l'intera camerata. Era un odore come di temporale e frammisto a questo c'era qualche volta un lieve odore di sudore infantile e di orina e le piaceva molto. Silvia ogni tanto pensava al nonno, ma in modo molto labile, e le pareva di non sentirne la mancanza. Lo pensava al tardo pomeriggio, subito dopo la cena, dopo il rosario nella piccola cappella, quando, stando seduti sull'erba, fuori, guardava e soprattutto udiva le rondini, che con le loro strida volavano bassissime su di loro e sulla colonia, mentre il più grande dei bambini suonava la campana. Al crepuscolo le rondini si stagliavano nette contro il cielo colore lilla e giallo all'orizzonte. Dalla porta della cappella usciva un po' di odore di incenso e questo insieme all'odore di umidità che saliva dai prati di erba alta immediatamente sotto la cappella provocava in Silvia un sentimento che non aveva mai provato e che non avrebbe saputo definire. Era certo che tale sentimento, provocato da quegli odori resi un po' freddi dal crepuscolo, le chiudeva la gola e le veniva da piangere. Silvia domandò alla suora di poter vestire come tutti gli altri, cioè con il camiciotto grigio di tela e i sandali di gomma rossa, ma inspiegabilmente per Silvia la suora rifiutò. «Qualcuno ti ha detto qualcosa per i tuoi vestiti e per i tuoi giocattoli?» le domandò la superiora. «Ti hanno preso in giro, rimproverata?» Silvia rispose di no. Nessuno aveva mai detto nulla, ma senza saperlo spiegare alla suora, aveva soltanto 7 anni, Silvia si sentiva estranea agli altri e sotto certi aspetti si vergognava sia delle bambole dei giocattoli sia dei suoi vestiti. Infatti lasciava i giocattoli in mano agli altri senza curarsene. Silvia si sentiva estranea, ma questo non significava che gli altri bambini si comportassero con lei da estranei o la lasciassero fuori dei loro giochi. Anzi, al contrario, sempre veniva invitata e pressata e sospinta a fare qualche cosa, a sostenere qualche ruolo anche principale nei giochi e nelle costruzioni di piccole capanne. Silvia si sentiva estranea, come dire, per nascita e non per famiglia. Forse proprio per il fatto che, ad eccezione del nonno, non aveva famiglia. Gli altri bambini ascoltavano ciò con grande stupore e, al contrario di sentirla estranea, come lei pensava che la sentissero, era motivo di curiosità e di domande a cui Silvia non sapeva rispondere. No, il padre non l'aveva mai conosciuto. La madre forse ricordava una signorina che doveva essere sua madre da certi piccoli particolari, certi regali, una collanina d'oro con un pendaglio di corallo, una signorina bionda che aveva visto 2 o 3 volte, e fratelli e sorelle niente. A quel punto degli interrogatori parlava però con grande entusiasmo e dovizia di particolari del nonno, che anche tutti gli altri bambini del resto avevano visto perché era passato in rivista all'intera colonia il giorno del loro arrivo. Sapevano che era uno dei fondatori. «Ma tuo nonno è ricco?» chiedeva un tipo, il maggiore di tutta la colonia, un veterano che veniva da alcuni anni e aveva una pelle squamata che sapeva odore di pesce e di uovo. «Non lo so», rispondeva Silvia. «Ma cosa fa?» «Ha una fabbrica di biciclette». «Allora è ricco», dicevano in coro maschi e femmine. «Ecco perché sei vestita meglio di noi». Di avere il nonno ricco, di essere vestita meglio di loro, a Silvia non andava. Non tanto perché gli altri bambini fossero poveri, molto più poveri di lei, né perché la presunta ricchezza del nonno e la diversità degli abiti la facevano oggetto di curiosità e di domande, ma perché si sentiva estranea. E si sentiva estranea, prima di tutto, a causa della sua grande sensibilità per gli odori, che del resto riscuoteva un grande successo tra gli altri bambini, che le mettevano sotto il naso un'erba, una foglia di alloro, una farfalla, e lei con gli occhi bendati sapeva sempre riconoscere tutto senza errori. Ma si sentiva estranea anche per un'altra cosa, e quest'altra cosa, del resto strettamente legata alla sensibilità per gli odori, era quel sentimento del crepuscolo che ora provava però ad ore alterne, anche durante il giorno e la notte. Quel sentimento che lei non sapeva definire in altro modo se non dicendosi: mi viene da piangere. Si era in agosto e questo sentimento del mi viene da piangere aumentava per alcune ragioni ben precise e per altre che si andavano aggiungendo col passare dei giorni. Infatti gli odori si erano fatti leggermente più freddi di prima e diversi, e in un certo senso cambiavano. Forse il sole scaldava meno le cose e inoltre le cicale e i grilli le pareva che non cantassero più tanto. Questo passaggio di qualità e di sostanza negli odori e nel timbro dei suoni e dei rumori si faceva più forte e avvertibile al crepuscolo, sempre alla solita ora, dopo la piccola funzione nella cappella. E anche i colori del cielo a quell'ora non erano più gli stessi. Silvia ottenne per qualche giorno di indossare abiti e sandali come gli altri, ma, e questo non se lo sarebbe mai aspettato, la estraneità aumentò. Vestita come gli altri si sentiva ancora più diversa e il sentimento del piangere aumentò. Tornò ai suoi vestiti. Venne un temporale che per un giorno portò freddo in colonia. Poi tornò il sole, ma andava e veniva sotto nubi grigie, rosa e caffè latte che passavano veloci. In quei giorni di tempo instabile, Silvia ebbe molta voglia di piangere e qualche volta andò nei gabinetti a piangere. Furono fatte delle fotografie in gruppo. Silvia, vestita con i suoi abiti, i capelli rossi e cespugliosi le nascondevano gli occhi, in mezzo a tutti gli altri vestiti uguali. Le suore spiegarono che ogni anno si facevano delle fotografie ricordo e Silvia chiese di vedere quelle degli altri anni. La superiora la portò nel suo ufficio, dove stavano appese al muro altre fotografie uguali a quella che avevano fatto in quei giorni. Si vedeva un gruppo di bambini e bambine vestiti con l'uniforme della colonia, con le stesse suore e sullo stesso sfondo. Alcuni di quei bambini erano in colonia anche quell'anno. «E gli altri?» chiese Silvia alla superiora. «Gli altri sono diventati grandi», disse la superiora. «Non vengono più in colonia». Anche questa risposta e quelle fotografie uguali una all'altra e a quella che avevano fatto giorni prima nello stesso angolo del piazzale sotto l'assa della bandiera precipitarono Silvia in quello stato d'animo di pianto che peggiorò di giorno in giorno, tanto che Silvia doveva andare a piangere nei gabinetti. Era un momento, poi passava. Venne la fine di agosto e il nonno arrivò a prenderla. I bambini lo vollero vedere e si attaccarono ai suoi pantaloni mentre distribuiva tutti caramelle. Fu fatta la valigia di Silvia e i saluti avvennero nell'ufficio della superiora insieme a tutte le suore. Naturalmente il nonno chiese alle suore come si era trovata e come si era comportata Silvia. «Bene, mi pare, vero?» disse la superiora accennando a Silvia. «Sì, sì, benissimo», rispose Silvia. «Ti dispiace tornare a casa?» domandò il nonno. Silvia disse di no. Ascoltò cosa dicevano il nonno e le suore. La superiora, parlando del carattere di Silvia, disse una parola che Silvia non capì. Disse che era intelligente, molto brava e buona, e molti complimenti, tra cui la parola malinconia, malinconica. Silvia non disse niente, ma poco più tardi, quando il nonno spingeva la bicicletta verso il grande cancello d'uscita accanto alla pineta, tra due alte mura coperte di muschio, gli domandò cosa voleva dire malinconia. Il nonno si fermò per respirare, aveva un po' di fiatone e aspettò prima di rispondere. Poi guardò un po' in giro nel cielo. «Malinconia, ma...» e fece una lunga pausa. «Il tempo che passa fa malinconia», disse. «Perché? Tu avevi malinconia?» Silvia salì sul sellino della canna, ora cominciava la discesa. «Qualche volta», rispose. Mare. Un giorno d'estate, un operaio di provenienza contadina, con labbra e denti belli e forti, essendo molto caldo e il Ferragosto vicino, approfittò delle ferie al mobilificio dove lavorava per andare al mare a Jesolo. Aveva quasi 40 anni, era vedovo e non era mai stato in villeggiatura al mare. Chissà perché aveva scelto Jesolo, forse perché aveva sentito parlare in fabbrica che ci sono molti camping, uno in particolare dal nome Metropolis, e che si possono fare molte conoscenze. L'uomo si chiamava Bruno, aveva una tenda canadese abbastanza grande, tutta l'attrezzatura e un'automobile. Partì il mattino presto del giorno 7 e arrivò verso mezzogiorno. Era eccitato, allegro e perfino un po' sbruffone, come tutte le persone che hanno soltanto 20 giorni di ferie e sono sole, semplici, ignoranti e abbastanza buone. Arrivò a Jesolo, cercò il camping Metropolis, che però era pieno. Insistendo, perché non ne conosceva altri, ebbe lo spazio per la tenda. L'automobile dovette lasciarla lontano, in mezzo ai cespugli, accanto alla rete metallica che divideva l'interno del camping dalla strada. Di là dalla strada, sotto piccoli pioppi impolverati, c'erano altre tende e roulotte e oltre a queste il mare. Bruno si diede subito da fare per montare la tenda e all'una aveva già finito. Fuori della tenda sistemò il tavolino e la seggiolina pieghevoli, il fornello e la bombola. Aspettando che l'acqua bollisse per gli spaghetti, fece un giro per il camping, vide i gabinetti e le docce, seppe che l'acqua calda c'era soltanto al mattino verso le 6 e che non c'era luce elettrica per la tenda. Il camping era affollatissimo, non c'era un metro quadrato libero e si considerò molto fortunato della sistemazione, tanto fortunato che si stropicciò le mani. È vero, c'era molta polvere, nemmeno un filo d'erba, ma tanta gente e bambini della sua stessa condizione sociale e anche molti operai tedeschi. Tornò alla tenda, l'acqua bolliva, versò gli spaghetti. Aspettando che cucinassero gli spaghetti, il sugo era già pronto in un barattolo ermetico, vide davanti a sé, proprio all'entrata del camping, un'automobile con radiotelefono e una scritta sulle portiere. La scritta diceva «Corvo selvaggio». Andò dal cappellone sorvegliante nella garritta d'entrata, accanto alla sbarra, e si informò. Si avvicinò a un uomo molto robusto, alto e muscoloso. Era proprio lui, Corvo Selvaggio, e il ragazzo fece le presentazioni dicendo a Corvo Selvaggio che Bruno era un nuovo ospite. Chiacchierarono un po', e poiché erano pronti gli spaghetti, Bruno invitò Corvo Selvaggio alla sua tavola per fare conoscenza. Corvo Selvaggio non accettò il pranzo, ma accettò di sedersi accanto a Bruno mentre questi mangiava. Gli raccontò che faceva l'orologiaio a Milano e che ogni anno, nei giorni di Ferragosto, si offriva volontariamente per la vigilanza notturna del camping. Badava alla morale, che non entrassero disturbatori, donne poco serie, ubriachi e teppisti. Era campione di karate e ogni anno era costretto a spaccare braccia, gambe e mandibole a qualcuno. Prima però avvertiva, per cortesia, per gentilezza, e contava fino a 3. Era anche lui vedovo e senza figli. Dopo pranzo l'uomo fece un sonnellino, ma fu svegliato dal caldo rovente, dal sole che batteva sulla tenda e dall'assenza d'aria. Alle 5 indossò il costume da bagno, consegnò il portafoglio al cappellone sorvegliante e andò verso il mare attraverso le tende e le roulotte. La spiaggia e anche il mare, piatto come la spiaggia, erano pieni di gente, ma egli fece lo stesso un piccolo bagno tentando di vedere il fondo ma senza riuscirci a causa appunto delle alghe rossastre. Poi distese l'asciugamano in un posto libero e si sdraiò. Dormì a lungo, perché quando si svegliò era già il tramonto. La spiaggia era quasi deserta e sul mare a piccola distanza un bragozzo veneziano con la vela color arancione e un grande sole a lingue di fuoco dipinto sulla vela si allontanava in quel momento con un suono di trattore. Tornò alla tenda, andò alla doccia, che era fredda, si rasò e poi si cambiò d'abito, si spruzzò in faccia un po' di profumo. All'entrata incontrò Corvo Selvaggio, che invece era in pantaloncini corti e canottiera come al mattino. Parlava con delle ragazze, anche loro già pronte per uscire, ma si sarebbe detto incerte sul da farsi e senza appuntamenti precisi. «Io di qui non mi posso muovere, è il mio preciso dovere», disse Corvo Selvaggio. «Da quest'ora in poi comincia la cagnara». Corvo Selvaggio presentò Bruno alle ragazze, che erano 4, e stettero un po' lì a chiacchierare, le une non conoscendo i propri progetti per la serata, né quelli di Bruno, che a sua volta non li conosceva. Bruno era un bell'uomo, dall'apparenza molto più giovane dei suoi anni, ma era timido, poco pratico, si vergognava di unirsi alla compagnia delle ragazze, che tra l'altro erano tutte molto giovani e carine, meno una. Si azzardò a chiedere «Andate a ballare?» «Ma forse», risposero 2 delle ragazze. «Avete già mangiato?» «Sì», risposero le ragazze. «Io no», disse Bruno. «Mangerei molto volentieri una pizza». «Qui vicino c'è una pizzeria birreria, c'è anche la pista da ballo», disse una delle ragazze che si chiamava Ines. Le altre si chiamavano Maria Rita, Sandra, Olis. Erano tutte 4 profumate e molto ben truccate con la porporina sulle palpebre. Bruno le invitò ad accompagnarlo e a bere una birra mentre lui mangiava la pizza. Accettarono, con l'aria di farlo malvolentieri, ma tanto per muoversi. Bruno chiacchierò molto con le ragazze, che invece parlavano poco. Ballò parecchio, aveva passato la gioventù a partecipare a gare di ballo. Così, oltre la birra, le ragazze accettarono anche la pizza. Mangiavano con molta educazione, tenendo bene le posate tra le dita e a piccoli bocconi. Erano infatti impiegate, come Bruno aveva sospettato. Maria Rita, che era la più vecchia delle 4, non era malvagia, ma la più bella era Ines, che era anche la più giovane, e quella che rideva di più. Nonostante la timidezza, la discrezione e le ragioni d'età, Bruno pensò che era quella che gli piaceva di più. Dopo le pizze, la birra, i balli, fecero un lungo giro a piedi, tornarono indietro al Metropolis. Le ragazze mostrarono la loro tenda, con lo specchio e molti vestiti appesi, anche lunghi gli parve, e gli offrirono un whisky. Poi Bruno andò a dormire. Durante la notte, ma nel sonno, essendo a 2 metri dalla strada, fu disturbato molte volte da automobilisti che partivano di colpo facendo stridere le gomme, e verso il mattino fu svegliato dalla voce di Corvo Selvaggio che diceva: «Vi avverto, per il vostro bene, vi avverto in tempo. Se vi avvicinate sarò costretto a distruggervi, a disintegrarvi. Attenzione, uomo avvisato, mezzo salvato. Per cortesia, conterò fino a 3. 1. Ci fu una pausa rotta da un fischio e da una schignazzata. 2. Altra pausa di assoluto silenzio e il rumore delle ciabatte giapponesi di Corvo Selvaggio che si avvicinava. Poi subito dopo un brontolamento e uno scalpiccio di persone che correvano. Corvo Selvaggio disse 3 con una specie di urlo. Subito dopo Bruno si addormentò. Passarono i giorni, anche il Ferragosto, con i fuochi artificiali visti dal Bragozzo sul mare insieme alle ragazze. Bruno frequentava spesso la tenda delle ragazze e gli piaceva Ines. Non c'era niente da fare. Lei aveva capito senza che fosse stato lui a farglielo capire, e talvolta sbuffava, talvolta accettava di andare a mangiare la pizza con lui. Bruno vide molto poco il mare e fece soltanto un bagno, perché le ragazze stavano quasi sempre in tenda a pettinarsi, a truccarsi, a cambiarsi e a scambiarsi i vestiti. Spesso Bruno faceva da cuoco quando le ragazze invitavano amici a mangiare in tenda. Prima tutti lo chiamavano signor Bruno, poi Bruno, e i ragazzi gli davano del tu. Bruno era felice, aveva fatto molto bene a scegliere Jesolo e il camping Metropolis. Una sera andarono tutti al Luna Park, che era immenso, e al Castello Incantato Ines, che era seduta accanto a Bruno, quando saltò sullo scheletro si rannicchiò contro di lui. Il 18 di agosto le ragazze partirono. Bruno restò ancora 2 giorni, il camping si era svuotato. Poi partì anche lui. Prima di partire scrisse un reclamo che consegnò alla direzione per la poca pulizia delle docce e soprattutto dei gabinetti. Corvo Selvaggio rimase. Bruno andò a salutarlo nella sua piccolissima tenda, dove durante il giorno Corvo Selvaggio riparava qualche orologio dei campeggiatori. Bruno tornò in mobilificio. Passò settembre, ottobre, novembre e quasi tutto dicembre. Si era tenuto in contatto con Ines. Scrisse 2 cartoline, una dal Lago Maggiore. Telefonò una volta alla PR dove Ines lavorava. Era stata gentile, l'aveva invitato ad andarla a trovare. Il giorno 31 di dicembre Bruno pensò di andarla a trovare. In fondo erano solo 5 ore di macchina. Arrivò al paese di Ines, che era vicino a Jesolo. Cercò la sua casa all'indirizzo che aveva, ma Ines non c'era. La madre gli disse che era andata in montagna con la compagnia. Bruno mangiò in una trattoria del paese dove alla sera si facevano grandi feste, a cui si iscrisse per la lotteria e dormì in un albergo verso Jesolo. Il mattino dopo andò a Jesolo per rivedere il camping. Lo trovò a stento. Tutto era deserto e irriconoscibile. Non c'erano le pagliarelle, i gabinetti e le docce erano sbarrati con delle tavole rose dal salso, non una roulotte, una tenda, niente. Questo non se lo aspettava. Si disse: «Lì c'era la macchina di Corvo Selvaggio, qui la mia tenda». E cercava qualche segno, qualche cartaccia, una bottiglia vuota, ma non c'era nulla di nulla. Attraversò la strada, andò verso il mare. Qui c'era la tenda delle ragazze di Ines. Guardò il mare, che era furioso, con grandi onde e spume, e uscì. Fece 2 passi e, sbarrata anche quella da tavole, vide la pizzeria. Anche lì intorno fece un piccolo inventario. Qui c'erano i go-kart, là i polli allo spiedo. Qui la tabaccheria dove Maria Rita ha comprato l'Ambra Soler e Ines è tornata indietro per cambiarla con un'altra crema. Le strade erano piene di sabbia portata dal vento, a piccole dune. Non c'era musica, non c'era una macchina, non un profumo, nulla.